C'è qualcuno? Cosa dice? Ma vabbè, sempre di 5 metri, ma 5 ottavi. Ah, è 5 ottavi, l'onda è. Ma qua sto guardando quella nuova, dice nuova energy, una mezz'onda, 92 euro, non c'è niente, nient'altro. Allora, in alluminio, altezza 5,75 m. Allora, 2 euro, un'altra posizione a 40, tipo, da 25 a 29, potenza massima 500 watt. 2 kg e 1 in alluminio. Cattere radiali, guarda. C'è la mezz'onda che è senza radiali e poi c'è la mia che c'ha 3 radiali. È della Midland, ma è più lunga quella tua? Eh sì, della mezz'onda è più lunga, sì. Però non vedo... Vabbè, questa è quella sammassa, la nuova. Ma che c'è da questo? Non vediamo come andranno messa, della Midland. Tanto il sito Midland è questo. Antenne, vediamo un po'. E forse è della Midland proprio. Adesso non mi ricordavo se era Intec o Midland. Comunque si chiama Energy e c'ha 3 radiali. Sì, costa quasi quanto la mezz'onda. Vista occhio mi sembra che questi vista così questi 3 radialini. Sono un po' delicati da come si presentano. Mi hanno suonato la porta già qua, è la mia moglie. Sì, ho detto che questi radiali, visti così in foto, mi sembrano un po' delicati, perché sono tra l'altro in orizzontale, non sono neanche inclinati, quindi se si posa qualche cornacchia capace che si danneggino pure. E speriamo che si danneggi, almeno mi metto quella che c'hai tu. Qua c'è QRM, molte volte la gente non la ricevo perché c'ho troppo QRM qua. Invece quella che hai tu, la Game Master, è più silenziosa in ricezione, capito? È un altro tipo d'antenna comunque. Quella lì è in alluminio, quindi anche quando piove, il vantaggio delle antenne... Delle antenne, come si chiamano, in vetroresina, è il fatto che anche se la pioggia batte ne risentono molto meno rispetto a una che è magnetica, cioè una che è in alluminio o in metallo comunque, perché lì il contatto con la pioggia è diretto, capito? C'ho Santiago 7 di QRM, dimmi tu. Tu c'hai 2, è logico che io se uno arriva a meno di 7 non lo sento. Ecco, adesso è 3 e sotto sento uno che sta chiamando, ma deve essere sempre o spagnolo, cioè o portoghese o brasiliano, sempre che ci sia altra parte, non faccio con le parti. Sì, molto probabilmente. Io ho lo squelch perché se no lo sento QRM. A volte scende anche a 1, quindi l'effetto propattivo magari. Io posso mettere anche il preamplificatore, vediamo un po' con il preamplificatore, che di norma non è necessario, però se mi ricordo come si mette ti dico il QRM col preampli, vediamo. Col preamplificatore sale a 7, sento anche le scariche, però di norma non si usa qua questo affare. Sì, perché sta avvicinando più già cose, per quello che senti le scariche. Figurati, io a 7, quando ce l'ho sempre fissa a 7 senza neanche il amplificatore né niente. È un macello. Speriamo che si rompa questa antenna, almeno mi compro la Game Master e ce la piazzo su. Almeno ho finito di soffrire, me la metto anche un po' più alta. Sì, tu infatti arrivi 9, mamma mia, questo non si vede un tubo veramente, perché anche ci vede 9,30 mi è sembrato, mettendo un amplificatore. E Natali, può dipendere anche da qualche studio. Roma c'è lì in zona, lo sai come sono i palazzi? Infatti, con quella lì che è più leggera la metto un pochettino più in alto, mi compro i pavelli nuovi, come ce li ho in campagna, e quindi la posso mettere più in alto senza né tiranti né nulla. Sì, nella Game Master il tirante non c'è avuto, a meno che non siano i tiranti per il tubo, ma io non ne ho né per il tubo né per il, né soprattutto per l'antenna. Se ci metto sull'antenna fa un pasticcio micidiale. No, ma io era per il tubo che stavo dicendo. Questo telescopico è leggerino, non serve a nulla, quindi più in alto non la posso mettere. Questo ne lo tolgo e ce lo butto. Capito? Se dovessi scendere nella lanterna faccio un lavoro come si deve, là. Almeno quando non c'è nessuno si può fare un DX, un qualcosa del genere. Vedi un po' quella che ti conviene. Sicuramente è più leggera di quella lì da mettere, sopra. Però quella lì quanto pesa, vediamo un po', perché non vorrei, poi magari 2,5 kg pesa, 2,5 kg. E la Game Master quanto pesa? Adesso te la dico, te lo dico. Vediamo un po' cosa mi dice. Questa la cercare un attimino. È dalla Siria, credo. Uomane! Vai Luca Puglioni, Uomane sarai tu, hai capito bello bene. Cosa vuoi che ti telefoni stanotte? È vero. Sì, va bene, noi. Qua dice... No, aspetta, non so. Ma è un bel sorriso. Boh, che strana. Non sono sicuro, qua dice 3 kg, quindi è più leggera la tua. E cosa non ho fatto? È alta 7,360 m. Ah no, questa è in alluminio però. Aspetta, allora ce ne sono dei due tipi forse. La mia è in alluminio. Allora aspetta, che qua questa non hanno fatto alcun alluminio, fa cosa? No, non si capisce, infatti un quarto, è qua un quarto d'onda, mannaggia l'accento. Adesso te la cerco, così ti dico esattamente di cosa è fatta. Beh Luca, cosa stai facendo? Nulla, Natale, mi su Facebook. Dice che fa male mi Facebook, anche Instagram, quello fa più male ancora. È vero, cosa fa male? La sagonca. È vero. No, lo sto leggendo, le cartatine che mettono, sono cose, condivisione di cani smarriti, cani messi sotto dalla macchina, insomma, cani che hanno bisogno di un alloggio, cose così, dai. Becca. Sembra così, ma Facebook aiuta molto, eh. Sì, già lo so. Oh, sono uscito a portare i cani, cavolo, freschetto, mia moglie è uscita e stava piovendo e ne ha portato solo a casa. Ehi, allora a casa mi metto, là c'è le scarpe, ma io l'ho lavate ieri, mi lascio, guarda nel schifo, poi i bianchi, mamma mia, a me mi durano da Natale a Santo Stefano. Non lo sai così. Luca Puglioni. Radio Garganella. Stai in barriera da leva, no? Ciu. Ciao, Cla. Ui. E infatti, mia moglie è andata a portare il cane e ne farà dare aria. Sta piovendo un bel qua. Vabbè, kappa. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Cla. C'è anche Gianfranco. che parlo io con quelli senza capelli. Sì, già c'è anche tu sulla buona strada, ciao qua. 3 kg in realtà lì è più pesante da quello che mi dice qua, anche con la vetroresina, ma mi sembra... No, aspetta, non ci siamo spiegati. Possibile. Aspetta che cerco il libretto di istruzioni mio, dai, ho capito che questi non sanno neanche di cosa stiamo parlando. È perché parla in tubi tipo PVC, PVC è... la conosco bene, penso che pesi meno di quel tanto. Luca, la Game Master quanto peserà secondo te? C'è su internet. Ah, cosa so, quanto peserà? 5 kg, Ah, vai, una 5 kg. 5 kg, pesa 7 kg la mia, la J-Ball. La tua Game Master, ce l'ha buona in busciacca. 7 kg pesa la mia. Però è doppia, non c'ha radiali, ma c'ha a fianco c'ha un'altra antenna che è alta 2 metri, sono due antenne, una da 8,50 m e l'altra da 2,20 m attaccata, capito? Va bene. Speriamo che me ne la butti il vento questa antenna, così almeno metto la rimasta. Cazzo, c'è troppo QRM questa qui figlia. Sono sempre 7-8 di QRM. Se uno arriva meno non lo sento. Già metto lo scotch e fanno quindi il fruscio del QRM, figurati. Scopri la gepolta nelle chiedita, cioè che master, io QRM 0, sempre. E la propagazione senza QRM, senti solo la voce parlare quando c'è la propagazione, no? Tutti su gaggini, più nulla. Niente di niente. Sì, ma è un bel pesante la tua. Già il palo me lo tolgo quello lì e metto un palo d'acqua, anzi due, perché la metto più in alto. Capite? Se non accendo quella lì metto un'antenna più seria, dai. Ma il piantone devi usare quello che ti ho dato io, quello che è dentro la staffa della parabola, quello lì è un tubo serio. Poi a quello lì ci devi aggiungere altri due tubi seri come quello. È l'acqua, tubi d'acqua, voglio mettere tubi d'acqua da 6 metri l'uno, così almeno tirato e blu. E quello è da 50, metti un 45 e un 40 a innesto, ho capito, quello è da 50, ci puoi mettere il 45 e innestare lì e poi un 40 e innestare nel 45, hai risolto il problema e superi tutto, ho capito. La J-Pol, vabbè, costa 200 euro di antenna, però una fraguba, una cosa allucinante con l'antenna, ma non va bene lì, Natalia, 8,50 m, capite, 8,50 m, è troppo lunga per metterla lì, capito? Vuole tirantata, se la metti lì. Io c'ero in una posizione molto bassa, io sono a 3 metri da terra e poi c'è l'antenna, ma... sono in alto come posizione lo stesso, capito? Va bene, dai, divertitevela, se ci siete ci sentiamo dopo, ciao! Altrettanto Claudio, ciao! Sempre, beh, trovato là! Sì, mi dà delle caratteristiche tecniche ottime, da 25 a 30, però mi dà 3 kg di peso, quindi è più pesante di quella, perlomeno, a meno che non sia una mia impressione. Da Mantova penso che peserà molto molto di più, perché non mi ricordo, era pesantissima, mentre questa l'ho alzata subito. No, oh, che una piuma quella lì confronta alla Mantova, ce l'ho io la Mantova 5 in campagna, nuova nuova. Però non mi piace perché è troppo pesante. Qua poi io la devo piazzare in un certo modo. Se tu vedi come è piazzata questa ti fa bene. Ma c'è anche pericoloso poi stare sul tetto. È un macello, tutto lì. Sì, infatti. Vediamo un po' come fare. Sia un 3 metri fuori dal tetto, 3-4 metri non di più, 3,60, peso 3 kg e nient'altro, tutto lì. Sì, infatti, non è leggera quello. Il vantaggio è che non c'ha radiali, ma soprattutto che è molto silenzioso e sensibile come antenna. Anche se anche questa è molto alta, comunque 7,3 è sempre una bella altezza comunque. Sì, almeno trasmetto più lontano. E dicevo meglio. Sì. Ma sono arrivato così basso a Porto Torres, per esempio. Quando ero in campagna arrivi sparato a tutte le parti. Chi è che chiama avanti? Anche. Era una fantagliata di preparazione intanto, una signorina doveva essere. E niente, c'è questa, che va bene dai 12 ai 10 metri, quindi a voglia che ce n'è. Dovrebbe andare bene Natale scontato, hanno anche diminuito il prezzo a 160, quindi vuol dire che si trova magari forse anche a 140. Sì, vabbè, quello che... Quando la piazza la nuova, mi metto il saliscendi, metto l'antenna bibanda su, pure, così almeno posso ascoltare decentemente. Sì, le recensioni sono ottime, sembra che la provata abbia guadagnato anche come distanza rispetto alla, come si chiama lì, alla, insomma il capitolato che ci avevo prima, alla manta. Infatti, io so che va molto bene, specialmente da lontano quella lì, che è tu. Deve essere l'originale, perché sono antenne, progettate proprio di precisione al computer, capito? Quindi non è così semplice autocostruirla, perché magari ti esce con stazionarie basse, eccetera, però non c'ha gli stessi rubi di radiazione poi. La mia, diciamo, ce l'ho già forse un anno, forse qualcosa anche di più, un anno dovrebbe essere, dai, occhio e croce. E ha visto tante, ha piato tanti, tanti colpi ed è sempre lì, quindi vuol dire che è una buona antenna. In compenso sto già sostituendo il secondo palo e la seconda antenna di banda, che me le ha belle sciocchettate. Ho finito ieri ero stamattina sul coso a togliere i tubi piegati, e quindi adesso insomma ce le metto più leggere, buonanotte, almeno si possono cambiare, perché collargano così, salendo, scendendo, in incubo. Sì, già lo so, è un ammassamento, qui se lo fai da solo è un macello. Ma non è roba da chiamare qualcuno lì, capito? Perché so io come salire, come scendere, se poi qualcuno si fa male ti metto in galera anche. Quindi preferisco stare tranquillo, fare le cose bene, piano piano, da solo, assicurare tutto quanto, in modo che si lavori in sicurezza, perché se no rimani così, sempre con la FIFA. Io ho capito. Andrà bene meglio, dai. Ogni tanto c'è AS5, c'è la scarichetta, quelli sono fulmini, speriamo che si rimangano le persone, non si avvicinino. Infatti, quelle scariche erano perché si sta avvicinando il temporale, vuol dire. Cosa ci volevo? L'altro giorno sono andato a farmi la carta d'identità al comune, lo sai che ho trovato? A Renato, non so se te lo ricordi. No, no. Io di CB, ma non le conosco meglio, non so cosa per nessuno. No, è passato un radioamatore. Non so, è giovane, anziano, come? Sì, insomma, sarà o quanto è me o più giovane di me. Forse Claudio lo conosce. Non te lo so dire, perché sono tanti che hanno la patente e altri tanti che non sentono più, non entrano più, non entrano né qua né là, nessuno in giù. Ce n'è qualcuno, poi c'è un piccolo gruppetto che entra solo in CV doppio, così almeno sono più... la passione loro è quella, capito? Ognuno ha un po' i suoi vizi, diciamoli così. Lo so, lo stavo imparando il CV doppio, e c'avevo anche un bel tocco col tasto, bello chiaro, ma ho lasciato perdere, addirittura il tasto l'avevo regalato a coso, ad Antonio. C'è l'Antonio, il mio tasto. Non l'ha presa qua la patente Gaetano Canzi, l'ha presa a Napoli. Quando l'hanno trasferito qua, era in polizia, allora ha fatto il cambio di nominativo. 10-0 Giulietta Papatango, GPT. Va bene, è più grande di te, Natali, forse di un paio di anni. E c'è in pensione da un bel po' di tempo. Dai, sto facendo cosa, vi saluto, a dopo, ciao ciao. No, non è Gaetano, Renato ho detto. Ah, Renato quello che lavorava a GBC, Renato Ragde. Sì. Renato c'ha 67 anni. Cazzo, ma non è più grande di me. Renato, sono andato a farmi la carta d'identità al comune, capito? E l'ho trovato lì, che anche lui stava facendo la carta d'identità. Infatti devo andare quando è il giorno 6 a ritirarmela, perché non ce la danno subito, capito? E Renato Rag ha dato l'esame assieme a Giovanni Mistero, li ho accompagnati io, erano tutti assieme, capito? C'era anche Franco l'hanno perfatto e invece loro sono passati. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao. Oh Claudio, ma non è uno che entra, o magari entra solo una casa? No, né a casa né nulla, guardi, no, non lo so perché, vabbè, comunque è del gruppo di Andrea, no? non so risponderti perché sono fuori da queste cose. Però poca radio ha sempre fatto da quando la patente. Vabbè, ciao. Impresa gli suega. Deve piantare nei momenti in cui non piove, esce. Oppure sta cercando lumaconi. E allora, mio più che giocano e ci scendi. Se sta piovendo, cavolo. Ma come ce n'è qua? Non lo so se ce n'è lì. Qua ogni tanto te ne trovi uno. Infatti è facile farne un sacco, ma vengono anche da fuori qua. Sei un pedivella cuocomane questo spalliero, ma non risponde alle provocazioni. È facile. No, non è. Oramai è vecchio anche lui, bisogna lasciarlo stare. Infatti è diventato vecchio questo spalliero, adesso è diventato pantofolaio, aspetta, coltivatore diretto. Comunque il vento sta salendo su di nuovo, ma l'altra volta l'Alghero, sta salendo l'Alghero, anche quello là che ha fatto danno era l'Alghero, sempre lì arrivano. Oh signor, chissà che fine ha fatto, c'era anche Luca, dice stava mettendo la cia alle scarpe, sono qua, sta ascoltando. Allora già rispondi, già mi temi allora. Andiamo mi sentite mai? Ah, Cuocomo è Kurt, no io Kurt non è Cuocomo. Natalia è pedivella. Ciao Concetta. Salutala. L'ho salutata. Ciao Marina. Poco fa non ti ha sentito che non avevo schiacciato. stavo schiacciando, ci siamo sovramodulati. Come stai? Adesso, parla adesso. Bene sto. Sono contenta, passa una buona serata. E un bacio a Kurt, al bambino di casa. Davvero. Kurt, ti manda due baci. Ok, ricambia. Quella dea, cuocuomane, mi ha tutto leccato l'altro giorno. Mandami una foto. Dea, cuocuomane. Ehi. Fuori ci sta, c'è freschetto, ci vuole il golfino leggero leggero, in casa c'è caldo, mamma mia. Ma piovendo sta lui, io non lo vedo. Ehi. No, no. Caspitina. Sono messo tornata io, e non esco più. Ehi, andiamo, andiamo me. Andiamo e andiamo, Natalicchie. Radio. No, oltre che Pedivella è coltivatore diretto, non ti rispondono. Leva sì che si chiede Cocui, Claudio. Claudio Cocui, Claudio Cocuovane. Natali, sono seduto in veranda, ti ha detto. Sono in veranda e mi sto guardando l'acqua, la pioggia. Io ho la veranda al coperto che è dal giardino. E sono bugiato pure nel salottino. Capito mi è? E mi sto prendendo la birra, cos'è che puliti? No, mi mulletti. No, mi ne appuntino della radio, ma sono andato a salutarvi, ciao. Ma sì, vuoi smeralda? Ehi, cosa smeralda, ehi? Avevo un microfono di paglia. Ehi, è di tromba, l'ammiro. Ne sono stufo, Natali, di mangiare lumaconi, capito? Stufo, anche dentro casa mi entrano nel giardino. Lumaconi, lumacche, lumacchine, l'estate, di tutto. Ne faccio io un salto da quelle parti, così ne eccito un po'. E il passo male a Zucchi che io c'ho il problema della gamba. E anche io c'ho il problema con la gamba, ancora a terra mi voglio. Dai che ci sentiamo nel ritorno davvero, dai, se ci siete dentro lo posso salutare, non voglio andare lì, te la giudico, non la radio, non matizza più a me, vi ascolto volentieri per salutarvi, ma stare in radio no, è molto più bello dedicarmi all'altro, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Ok. Gianfra, cosa stai facendo? Qui sto cacchiando con Mario, oggi c'è 30 gradi, domani 25, 22, 23, le minime la venerdì, domenica la minima 11, un po' bassa, bassa no, le massime 23. Al mare, e sto chiacchierando con te la tale con Maria. Sì, che io che me ne volevo andare a pescare, sono andato l'altro giorno a Castelsardo. A pescare volevi andare, Natali? Sì, me ne volevo andare a pescare in questi giorni, ma cosa, si fa, si ne para l'aria. Ma Arghero? No, a Castelsardo ero l'altro giorno. Da solo? No, con un amico sono sceso. Mi avevo comprato la canna per pescare alla bolognese, capito? Già ne ho canne, da lancio, per il porto, sì, la voglia, però mi sembrava comprare da nuova, la voglio provare. Ed è fortunata pure quella canna. Ma ascolta, va bene la canna a fumare, andare a pescare. No, quella fumaria no. No, ci posso venire, non ne ho altre. Ce ne presto una io. Tanto Maria, ma come è la canna fumaria? Andiamo, andiamo. Vabbè, no. Che ci vuoi fare? Aspetta, sono salito in campagna e me ne manca una di canna. Che l'avevo comprata, quella in due stessi per... C'era sempre il soli. Quella bianca, mi. Quella che avevo comprato. C'era sempre il soli. Di Parigi. Non c'è entrato nessuno, erano chiusi a chiave. Che casino che... Andiamo, andiamo a tali chiette. Sono indeciso a tali, se lasciare Windows 7 ancora per il mio portatile o mettere 10, però 10 non mi piace. Il mio ce l'ho da un sacco di tempo e funziona bene, boh. Cazzo, quella penna l'ho dovuta rifare mi, perché da stento non partiva. Deve essere si è impappinato qualche cosa dentro la penna, allora l'ho dovuta rifare. Adesso già funziona. Io ho detto, l'ho provata e andava benissimo. Poi ho fatto il coppia, verso la mia, ce l'ho coperto da su verso giù, e niente, non ho fatto altro, boh, strano. Poi l'ho riprovata e funzionava, e non so cosa è successo, boh. Da me partiva. E che vuoi dire? No, io l'ho fatto da capo, l'ho fatto, almeno sono sicuro che è fatto. Ne ho due così. Ne ho fatto due, ne ho fatto. Così che ando due a accendere un computer e veda inserita, batti direttamente da un kiwi, non devi fare. Adesso vediamo se... se lascia lì Windows 7. Sì, c'è anche Windows 7 io. Nel computer di concetta c'è Windows 7 per esempio. Io invece qua c'ho sempre 10. E comunque per il momento lascio quella. Sì, infatti. Se magari va male ti installi Windows 10. Dai, da cacciare come te, perché ti devi abituare, poi è diverso Windows 10, capito? Ho capito. Adesso ce ne vado su Windows 7. Adesso non so manco usarlo, già sono un anno che non lo uso più. Io a me mi trovo benissimo, alla grande. E poi Windows 7, vabbè, sono anni e anni che lo uso. Adesso dovevo mettere le mani, 10, boh. Un po' così. Ma io mi trovo bene. Sì, vabbè. Perché sei abituato a 10 adesso, ecco perché ti trovi bene. E infatti non mi ha dato nessun difetto, dice. È proprio di lusso. Meglio così, Natali, buon per te. Sì, infatti l'ho piazzato un pulito, capito? Proprio, non è che ho fatto l'upgrade da 7 a 10, ho proprio installato Windows 10 da 0, capito? Ma Gianfranco, chissà cosa sta facendo. Devo buscare uno di quei microfoni che c'è Gianfranco. Che quelli sono diversi da questo, Gigio è un cesso, troppo vecchio. C'è anche l'MBG4 nuovo, mini scatola, ed è peggio di questo. Si sente più da lontano che da vicino. Non va bene l'MBG4, il mio è perfetto. Sì, va bene. È che si sente da lontano, più da lontano. Se parla a Concetta, senti più a Concetta che a me. No, ho capito, Natalia. Se Concetta parla da lontano, senti più a Concetta che a me. Capito? E quello è il difetto. Sono microfoni di concessione vecchia, capito? Questo è un Turner, per esempio. Ma sono... Ma io perché c'ho... Alla via, senti. È vero. Si sente. Solo di attaccarla a questi giocattoli un microfono del genere mi piange anche il cuore. E allora andiamo e andiamo a tali, certo. Infatti andiamo e proprio va bene. Gianfranco chissà cosa sta facendo, io stavo facendo cosa lo stesso. Da, ti saluto Luca, ci sentiamo alle prossime. Da, tu mi ascolto. Io già sono qua, Natali, sto guardando dei video su TikTok, sono qua, vabbè, fai, tranquillo. Che ragazza, ci sentiamo, ciao Gianfranco, sei in ascolto. Natali, mi ha chiamato? Ho visto che non entravi, me ne stavo andando anche io. No, sto ascoltando dall'altra parte, Natali, tutto lì, mi sto facendo due risate. Vabbè, buona querix, allora là, ci sentiamo alle prossime. Ok, dai, tanto qua è acceso comunque. Aspetta, Natalino. Oh, ciao Fra, buonasera. Ehi, mi stavo pensando all'altra sera, ho visto quella roba che serve a te, di quelle pentole, quelle interraccolta. Ah, capo, e dove l'hai visto? praticamente via Petenato, sai dove? La via che scende, diciamo, al centro di Piazza Tola. Ho capito. Scendendo c'è un negozio a tutte le misure, grandi, piccole. Scendendo sulla destra rimane, dai, prima di girare verso, diciamo, verso il corso, dai. Bisogna andare a vedere, dai. Ehi, tutto bene, sto andando a lavorare, come mi ascolti? Bene, bene, ti ascolto bene. Cambia la modulazione dall'altro, sì. Ehi, qualcosina, però già ti ho riconosciuto che sei tu. La voce è bella, amprosa. Il microfono è un pace, di quelli normali, però. Non è un amplificato. Cos'è un Contact? No, è un valvolare, un GTX 5000 della Gemetronic a valvole. Sono belli quelli. Magari è freddo ancora perché l'ho acceso, visto che ci vedete, prima che vada via lo chiamo. Scusa, c'era anche Gianfranco, lo saluto se mi ascolta. Sì, Gianfranco stava ascoltando da un'altra parte. C'è anche Luca qua. Ciao Franco. Ciao carissimo. Lo torno anche a te. O ti riconosco con questo baracchino. Sto facendo scaldare due valvole di questo risultato bellico. Siamo abituato da anni e anni a sentirti amplificato, a sentirti così, forse mi manco tu. Ma è scemale di radio, non mi sono mai ascoltato con questo. No, non è scemale, però è una radio un po' così, da. Questo è proprio quello che ho trovato attaccato, non è neanche il suo, è un pace, ma è tutto, l'ho tutto sistemato, è dentro la capsula, quella in alluminio, era tutta attaccata, l'ho ricostruita, l'ho incollata di nuovo, però non è un granché, da. Vabbè, ripeto, siamo abituati a sentirti con la tua radio, la solita, a sentirti con questo, molto diversa, un vecchiotta a valvole così. Sì, mi sembra che abbia 9 valvole all'interno, 7 o 9, mi ricordo 9. Avevo preso un tipo, lo stava vendendo insieme all'aspirapolvere, lo stava buttando via, era un pacco unico, invece dammi solo, guarda che funziona, me l'ha provato senza antenne, non fare che bruci tutto. Quanti canali c'ha, Fra? 40, c'ha 40 canali. Anche le bande laterali? No, non c'è nulla. Mi posso spostare, diciamo, di frequenza un po' a destra e un po' a sinistra, siamo qui di Clarifer. È che lo devo usare tutto a destra, sicuramente da centrale, dai. Non è stato mai toccato, tu cosa c'ha? La potenza, ma mi pare che non funziona, la potenza, power off, questo per accendere il pulsante di standby, per farlo scaldare e basta. E poi lo switch lo puoi usare o in trasmissione o in ricezione, c'hanno due funzioni diverse, dai. E poi c'è il PA, si sente un bel rumore di relay quando scatti la portante. Sì, sono quelli antichi, sono tutti a relay. Sembra il relay, ti ricordi dei vecchi frigoriferi, le puntine che avevano, il relay che aveva sotto, dai, nel vano motore. Mi fa di quando schiacci la portante, sente il rumore. E poi scalda come un dinosauro. Beh, si è a valvola. Vabbè, dai, vi saluto, sei entrato giusto per dirti quella roba là, che ti è interessato l'altro giorno. I prezzi non li ho visti, erano tutti senza prezzo, quindi si può andare a chiedere, vedere un po', dai. Sì, infatti. Dai, vi saluto, un abbraccio, alla prossima. Ciao, Fra, ciao, alle prossime. Stavo andando via io. Vabbè, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, quelli per me. Ciao Natali. Radio. No, sto usando un'altra radio, questo è... Oh, Iesio, com'è di modulazione? Buona. Voglio andare a tutto baracchio, mi si chiuda, boh. Sì, basta quella coppia. Ho detto, com'è di modulazione questo Iesio? Va bene, cla. Ciappa del Roggero. Va bene, va bene. Vatti quanto mi sta dando. Sugar. E già ne dà fattici. Cosa, Cla? Ho detto che già ne dà di fatti. Ehi, avete levato sul più del più 30. Addirittura. Vabbè, questa è l'antenna, quella 8 ottavi. Questa pompa. E ha voglia. Faccio un po' di vento, ok? E già lo so, c'è un bel vento, un bel parecchio. Kappa. Eia. Prova. Prova, e prova radio. Kappa. La musica ha breccato. In mezz'ora hanno fatto un bidone da 26 cucchiaini dei cuccoli, mio vicino di casa. Ma te ne vuoi? Vai, ce li ho ancora in freezer, cazzo, bollitti. Va bene, io ho fatto 24 rosene. Ehi, un bidone da 25 cucchiaini da giù, mi scivi tinta bianca, via la bocca. Infatti l'ho messo il tappo perché stavano tutti uscendo fuori. Ma in mezz'ora, io stavo bevendo una birretta in veranda ed è rientrato, ma qua mi a 50 metri dalla casa, non di più, non è che si allontani molto. Io arrivo 5 sera. Poi vabbè, quelli li ho fatti, che mi servono soldi, che me li sono venduti. Hai fatto bene, no, io ce ne ho ancora. Ma li ho smorrentati, messi nelle bustine, me li ho separati, tanto li mangio solo io, me li ho messi in freezer. Sì, perché l'importo del dentista da 7.000 è salito a 8.500. Non c'è il dentista che mette il grosso, mette il meccanico, no? Quando apre era quello che mette a metà, no? Ci vuole quello, ci vuole quell'altro. Vabbè, è troppo. Mia nonna domani mattina per accompagnare alle 9:30 alla Docs Clinic per fare i segni. C'è una visita e poi la correzione del ponte che gli hanno fatto da lì, c'è l'apparecchio. Lui è noisy. No, io ce l'ho martedì prossimo. Praticamente me l'ha rivitalizzato uno e me lo devo ricostruire. Mezz'ora di lavoro, 120 euro. Meno matteci. Non basta di nascere in biliardo, adesso domani pagherà sicuramente 80 euro, 60 euro, non lo so. Devono fare una correzione. Capito? Vabbè, pazienza. E Natalino non c'è più. Tu fate il conto, l'ho dato già 3.520. E ne avevo ancora 5.000. Allora c'è più carbonato. Vabbè, se vuoi una cosa fatta bene, gai su conto. Se vuoi in Bucaria, allora andi tramite la cassa mutua. Vuoi Bucaria, andi in Romania. No, hanno speso lo stesso un bel cazzo, mi ricordo se sì o 7. Qualcosa del genere lo stesso, ma nell'arco del tempo, non tutto assieme, capito? Perché gliel'ha fatto in 2-3 volte. Tutto casino, bubu. Ah, purtroppo sono sicura, è come la macchia di ruggine a me, se non te la guri è un casino, e questi sono i denti uguali. Lascia andare, meno male tanti me li ha salvati, là. Tanti, me li ha salvati, se no anche quelli erano da levare. Io ho visto la macchia di ruggine, io ho visto l'altro giorno la macchia di ruggine vicino al ginocchio, ho preso il coso, l'antirruggine gliel'ho passato, non c'è più. Bravo, hai visto, adesso come lo dirai? Sì, ho messo l'antirruggine, adesso lo sto aspettando, quasi quasi l'ho una verniciata. Se vuoi passare la metà la vernicio io, ce l'ho la bomboletta di color carne di cane. Oh, io voto bianca o celeste, usci. No, se no te lo voto il culo dei cani bugendi. Ma mai l'hai vista, stai vedo tu? Al coso, al... Bah. sono stufo di farmeli con la macchinetta a casa, e che vado, me li faccio far bene dietro, tutto. E Fabio, la vai a Baggeretti, abbiamo un puffo. Sono Baggeretti. No, se no, no, un po' che non fai. Io vado da Gianluca, il cugino di Marina, me li fa lui, ma i cibocchi mi sono rimasti. 15 euro pago e me li fa lui, mi fa culo di scimmia. Ah, me la fate con le runde? No, io non ne ho capito, uno già, immagino di manco di te. Sono lì dietro, non riesco mai a farmeli bene, capitolare sì me li traccia, me li fa pletroando, così mi faccio un giro. Cazzo che entrato, va via, vai qua Celeste. A Celeste, va di chat in Celeste. Gli dico cazzo. E per cambiare, cazzo per cambiare. Fatti la bianca, fatti la bionda, cazzo Celeste. I bambini sono un po' strani, capito? Ma strano, ma cazzo la Baggeresti. A posto Gemmo, andiamo e andiamo. Tra blu, viola, cra. Ehi, cambia il vostro colore amaranto. Amalato. Allora, amalato, colore amalato. Poveri noi, poveri, a carità. Andiamo e andiamo, Claudio. Andiamo e davvero andiamo. Quindi lui questa radio ci può usare ogni tanto, dai, giusto così per farla scaldare. Sì, sì, sì. Adesso voi sentiamo un microfono, entra un garage, almeno con mezz'ora si caldo. Ehi, no, qua c'è l'MC50. L'MC50, la radio è un FT757. MC50, Michigina Maestra, infatti sono 20. Modulati 35, già va bene. Va bene, Ugaria, dai. Che c'è Anna con Ilaria e le fiutelle di bere, è un casino. Mettendo un cazzo, questo cazzo di bonda da Raianna. Me ne vado un po' nuovamente fuori, dai. Ci accoppiamo dopo, se ci si. Ciao. Ehi, Acra, dopo, già è acceso qua, ciao. Ciao. Attenzione Sassari, sentite? Brecco a brecco, Sassari, con cui ci sei? Attenzione su G10, brecco! Attenzione su brecco, attenzione, mi senti? C'è qualcuno su 10? Attenzione Sassari, Gomorra! Allora, cos'è il fugaggine in questo canale? Cosa è successo? Avanti, chi è? Buonasera anche a te. Se mai finire di parlare, poi molli la portante, se no non si capisce cosa dici. Riformula tutto perché hai detto una cosa che non c'entra niente con quello che sta dicendo. Roberto, ci sei? Attento, Sassari. Roberto Sassari, cambia. Cambia, non ti lottare così, di. Non ti pedini. che mi sono tre dieci. Ma chi sei? Ah, ho capito. Ho capito. Fratello Giuseppe. Ma come tu hai? Ti ho dato un po' di accaddu? Com'è la motivazione? Ah, è chiara. Bella, perfetta. Lo so, lo so. È buono il segnale. Sei buono, si ammove. Ehi, ehi, va bene, va bene. Ma sei dentro Paolo Torres? Ma sì, macchina o a casa? Ah, allora già va bene, va benissimo. Ciao, ciao, sentiamo, ciao. Sentiamo subito. Ci blocco. Prova, pronto, pronto. Andiamo bene, andiamo. Sul tetto, perché me ne sono dimenticato, gli ho messo tanto la vasellina per non entrare acqua nel PL, perché c'era quel PL che stava andando male, l'ho dovuto pulire tutto, perché dighici difettosi si girava dentro e l'ho dovuto risaldare, rifare, e adesso gli ho rimesso tutto, gli ho rimesso, ma dovrebbe andare abbastanza bene, dai. Sì, va bene, cosa dove vinci, dai, Radio 5 al posto. A posto. KK, già lo sai, quello grande. Sì, la voglia. Va bene. Ma io devo fare una prova, un attimino, un'altra banda. L'ho acceso ed era sul 5, sul 10, ho sentito a te. KK, non c'è problema a te. Beh, nel caso ci sentiamo dopo, Antonio. KK, non c'è problema, vai vai. Voglia. E via, a dopo, ciao. Ecco qua, avanti. Sono sempre me. Ma come è andata la prova? Sì, no, sto mettendo un po' a posto varie cose, dai, altro che così non lo spostare, ho toccato qualche tastino, quindi stavo a facendo un po' di memoria per riportare tutto quanto come, come prima. Ah, è capa. Hai fatto bene, dai. E ogni tanto queste cose, se non si usano, è un casino. Questo che io devo sempre tenere in vita, capito? Perché è molto pericoloso che si guasti. Vabbè, ma mi accendono ogni tanto. No, è che andando in trasmissione, vabbè, c'era una tabacca, praticamente mi spostavo di frequenza. Ho dovuto togliere un po' di cose, dai. Cioè, va bene, adesso è a posto. No, io ce li ho in questo qua ce li ho impostati, capito? Ce l'ho già messo a posto, quindi non c'è problema. E vabbè, ma anche tu dovresti avere lo split, che se lo schiacci fa due frequenze differenti, con una parte e con l'altra ascolti, capito? No, sicuramente c'è, ma non mi tocco io, no. Non mi tocco perché non è che lo conosca tanto bene, bene, bene, capito? Allora, guarda che funziona così, andava bene. Sì, però se tu schiacci split non succede niente, guarda, schiaccia split, poi schiacci la portante e ti accorgi che in una frequenza parli e non l'altra ascolti. Giustamente ti devi impostare una frequenza desiderata, no, non succede niente. End, scan, send, lock, split. SF, RIP, non so come non dire questa cosa. Dovresti averlo sulla destra, adesso non mi ricordo come dovrei prendere il catalogo. Guarda, c'è scritto split. Se no vive un coso perché tu RIT. RIT è una cosa, poi c'è scritto XIT anche. Allora beh, Ritti, Xit, TF, Set, Millo, da questa parte è split. c'è. Se tu lo schiacci quello, lo primi, ti accorgi che magari ascoltando sei sul 10, però quando vai a parlare sei un altro cane, prova. Ah, non lo imposta nemmeno perché c'è così preimposati, capito? Cosa stai dicendo? Togli il look. Guarda, non è che muro così che è meglio. Quando lo saprò meglio, lo tocco. Vabbè, praticamente è una cosa per poter parlare in due con due radio della stessa qualità, diciamo. Tu parli in un canale e io ti ascolto nell'altro, capito? Ah, ho capito ora. Vabbè, quando cosa succede quando te lo imposta, te lo mette nel coso, no? Magari la gente sente a me parlare sul 10, però tu mi stai ascoltando sul 45, avanti, giusto un esempio, sto trasmettendo nel 45, una cosa del genere. La gente magari mi chiama, però non sento io gli altri. Per dire, esce a vederti mio, io adesso sto ascoltando sul 10, però in trasmissione, vediamo dove sono. Ho messo quella pila a caricare, è una pila che va di nocchi, non si vedeva più niente, adesso l'ho messo a caricare, vediamo se carica. Strano. Io stavo trasmettendo il 27.55. Però ascolto il 27.075. Ah, vero? Se metto lo split sì. Ma te lo segnala quando lo metti? No, lo metto io, lo segnala sì. Capa, no, qua c'è normale. Andabex. Beh, ragazzo, io vado a mangiare un morso, che sono qua, faccio tardi domani e mi devo alzare presto. Ci sentiamo più tardi al limite, se coincide anche tu. Ciao, ci sentiamo. Ciao, salutami la ciurma. Ciao, ciao.